Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Magari si può pensare per il suo compleanno al closing, alla firma con Mr. B. No, più avanti, due giorni più avanti, e poi io ormai ho un'età alla quale non si fa più festa per il proprio compleanno. La situazione closing è fissata per il 13 di dicembre, crediamo che non ci siano ostacoli ad ottenere le autorizzazioni che si devono ottenere dallo Stato cinese. È fatta, ci sarà il closing il 13 dicembre. Mi ha domandato un signore del pubblico: ma cosa succede se il closing non ci sarà? Dovrò riprendermi il Milan. Se non arrivassero in tempo, io credo che potremmo spostare il closing di un tempo però limitato, un mese e mezzo, non di più. Mi occupo di Milan e non di Fininvest, e quindi è una domanda che va girata al potenziale venditore che è Fininvest e il potenziale acquirente che è SES. So che domani dovrebbe essere un giorno molto molto importante, però è giusto e corretto che siano loro a rispondere, non io. Oggi era il termine ultimo per arrivare al closing, e il closing è questa. Adesso è una certezza ufficiale, perché prima erano solo indiscrezioni giornalistiche. Il closing nella giornata di oggi e nei prossimi giorni di sicuro non ci sarà. Come Giorgio De Luca, nostro autore, Paolo Corleone in regia ed Edoardo Lavezzano in redazione, Marco Bellinazzo qui con me, possono vedere, gli ascoltatori non possono vedere, ormai una barba lunga e bianca. Io buongiorno. Mi è venuta seguendo il closing del complimenti, Milan. Complimenti per la scelta della colonna sonora, che è bellissima. Di una tristezza. Un tappeto musicale ottimo. Di una tristezza ottimo. Infinita. Allora, fatto l'addio a Berlusconi con tanto di lacrime e striscioni, eccetera, eccetera. Detto che Milan-Fiorentina di 2 settimane fa era l'ultima partita dell'era Berlusconi con tutti i Peana che sono seguiti, adesso, 3 marzo, cioè la data del closing, Adriano Galliani annuncia, ma lo sapevamo già, annuncio pleonastico, il closing non ci sarà, si valuta un accordo per la cessione in tempi brevi. Marco Bellinazzo. Ora mettiamoci nei panni di Adriano Galliani. Va bene. 30 anni di Milan costretto, insomma, a recitare questa pantomima commedia dell'assemblea che non c'è, dell'assemblea fatta ma che di fatto è un semplice orpello barocco su una trattativa che ormai, insomma, è arrivata a un punto cruciale. Sì. Nel senso che di solito ora nelle aziende il venerdì c'è il casual day, insomma, uno è più tranquillo, può parlare in maniera più serena. Sì. Noi stiamo stanchissimi, siamo prostrati da una settimana infernale. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Come va? Pier. Come va? Bene, stiamo parlando di questa saga di Beowulf, sì, che è diventato il Milan. Nel casual day si può parlare, quindi, dicevo, un po' più tranquillamente, no Pier? Sì, assolutamente. Di certi eventi. Anche con i jeans. Ecco, con i jeans. E noi oggi parliamo con i jeans di quella che è la situazione. Perché poi, insomma, non possiamo sempre far, come dire, per correttezza istituzionale, far finta di niente. Allora, io mi sento di dire questo, che siamo arrivati al punto in cui, per rispetto del calcio italiano, per rispetto della storia del Milan, per rispetto della storia della Fininvest, è bene porre un punto. Aggiungiamo anche per rispetto dei tantissimi tifosi che soprattutto, il Milan ha e della sua storia. Soprattutto per quando parlavo della storia del Milan, parlavo dei tifosi che poi ci scrivono, che naturalmente sono ormai inviperiti nel migliore dei casi. Allora, il signor Lee, come lo chiamo da alcuni giorni, è un broker, un intermediario che da tutta una serie di verifiche fatte da subito dopo praticamente la sua apparizione nello scenario del mercato calcistico globale, e si è dimostrato uno che non ha una sua solidità finanziaria. Ha vecchie vicende, oggi tirate fuori anche dal Corriere della Sera, ma insomma erano già uscite, sanzioni di borsa, vecchie storie, truffe, insomma un passato non proprio limpido, rassicurante. Ora, questo era l'affare della sua vita e si era presentato finora con una serie di soggetti alle spalle. Lui era un intermediario, un broker, un po' come Mr. B, sì, che in qualche modo hanno garantito la Fininvest. L'evento scatenante di questa confusione degli ultimi giorni è il fatto che man mano tutti questi soggetti sono spariti. Ora, il signor Lee non ha più i soldi, cioè non aveva mai avuto i soldi per comprare, sì, il Milan, non ha più l'appoggio di quelle istituzioni finanziarie che garantivano la Fininvest, perché quelle garanzie non sono venute meno. Allora, il punto è, 200 milioni sono arrivati. Se la Fininvest ritiene di voler concedere un'ulteriore proroga per incassare altri 100 milioni e quindi arrivare a 300, sì, concedendo un termine entro cui molto probabilmente non ci saranno ancora i soldi, tutti i soldi, e quindi a quel punto chiudere la trattativa e uscire con un bonus di 300 milioni al netto delle verifiche antiriciclaggio, può scegliere questa soluzione, rimandando ulteriormente il closing. Altrimenti la Fininvest dovrebbe prendere atto che il signor Lee non potrà garantire, magari potrà garantire i soldi per comprare il Milan, ma non, sì, quel futuro radioso che ci ha detto Berlusconi. Certo. E a quel punto la Fininvest, visto anche il passato politico di Silvio Berlusconi, ha tutte le possibilità di chiedere al governo di Pechino, che ha avviato la colonizzazione del calcio internazionale con un preciso progetto politico, se l'operazione Milan è in qualche modo come dire, concordata o comunque è protetta, è caldeggiata, è quantomeno non osteggiata dal governo di Pechino, oppure questa è un'operazione che si muove al di fuori di questa strategia, e di conseguenza il Milan, come dire, si troverebbe messo in una situazione non consona al suo passato. In questo caso, ripeto, per le premesse che abbiamo fatto, sarebbe il caso, insomma, di fare chiarezza e di dire che quelle garanzie che erano state date evidentemente sono andate nel vuoto. Mi fermo qui, sì, e chiudere questa pantomima, perché tale sta diventando. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. 800 24 0024 al numero verde. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, Marco Beninazzo qui presente ci ha spiegato tutto, mi sembra sia stato molto chiaro. Qual è il tuo pensiero, Pardo? No, io condivido prima di tutto perché chiaramente di Beninazzo mi fido, è il suo core business ovviamente occuparsi, certo, di tutti gli aspetti legati a calcio e business. Credo che ovviamente in queste ore qualcuno starà maliziosamente pensando a chissà che cosa c'è dietro, ma credo che tutto si risolva nella frase che ha pronunciato il professor Beninazzo, cioè al netto di tutte le verifiche antiriciclaggio. Questo, sì, è il tema fondamentale. Sì. La situazione, mi rendo conto, è particolare, quindi può utilizzare anche pensieri diversi, però è anche vero che in realtà nel mondo del business, credo che Marco potrà confermarcelo, cose guarda, Piero, di tutti i tipi possono succedere, quindi scusami, Piero, scusami, chiaramente è cambiato lo scenario. Non, no? Volevo, giusto per interrompere una cosa, insomma, un'interruzione pertinente, ieri è stato chiuso un affare Cina-Francia con Lione, l'acquisto del 20% delle quote. I cinesi dovevano pagare 100 milioni, avevano dato 30 milioni di anticipo, ci sono stati 6 mesi di ritardo, ma ieri di altri soldi sono arrivati e l'affare si è chiuso. Mi fermo, sì, ma qui. Infatti, ma io guarda, io dico una cosa, e quando si fa una trattativa così importante, così delicata e con degli interlocutori così diversi da quelli abituali, no? Anche per un tipo di proprio di modus operandi, ci stanno le sorprese, ci stanno i colpi di scena, quindi io non sono fra quelli che ci vede per forza chissà quale marcio. Credo che sia arrivato un momento però nel quale il Milan, appunto, per tutte le cose che diceva Beninazzo, per rispetto della sua storia, per rispetto della storia personale di Silvio Berlusconi, che è una storia clamorosamente vincente nel calcio e non può essere offuscata, non può rischiare di farsi minimamente offuscare da un finale di partita così surreale, surreale per certi versi. Insomma, io credo che sia allora, arrivato il momento di mettere un punto. Non io credo che io ho una data, 14 febbraio 2015, sì, in un comunicato ufficiale, sì, San Valentino, tra l'altro, in un comunicato ufficiale Fininvest ammette la possibilità di una partnership con un socio esterno per il Milan. Si inizia così, 14 febbraio 2015. Abbiamo in linea l'avvocato Giuseppe Lascara, che è rappresentante dei piccoli azionisti del Milan, quindi anche del tifo rossonero. Io la saluto e voglio sapere lei cosa ne pensa, come sta vivendo queste ore. Buongiorno a tutti, lo sto vivendo come lo stanno vivendo tantissimi tifosi milanisti. Scherzando, l'altra sera si diceva che in questi giorni ci stiamo adoperando per far rientrare dal davanzale della finestra molte migliaia di milanisti pronti a buttarsi di sotto, perché siamo arrivati a un punto in cui siamo allo psicodramma collettivo. Purtroppo il Milan è una squadra molto amata, ha fatto passare ai suoi supporter momenti bellissimi, momenti meno belli, tutti quanti vissuti con grande partecipazione. Credo che nell'ambito di questa vicenda siamo arrivati però a un punto limite, perché è ben vero che questi sono affari grossi, che possono presupporre anche tempi lunghi, intoppi di ogni tipo, ma quello che più dispiace non è che si verifichino ritardi e problemi, è che non ci sia una comunicazione trasparente su tutto ciò. Noi sono mesi che imploriamo Fininvest dal canto suo, che ha advisor che dovrebbero essere in grado di verificare la effettiva consistenza della cordata cinese, e poi i cinesi e i loro rappresentanti italiani in secondo luogo, di metterci la faccia e di metterci la voce e di comunicare in modo adulto ai tifosi milanisti che cosa ci dobbiamo aspettare. Perché oggi noi abbiamo detto che tutto sommato problemi di questo tipo ci risultano particolarmente preoccupanti, nella misura in cui non si tratta soltanto di comprare il Milan, ma anche di aggiungere ai soldi necessari per completare l'acquisto anche un sacco di risorse indispensabili, certo, per i prossimi investimenti. Certo. Tra due mesi, chiaro, tanto per incominciare, tra due mesi c'è un bilancio da approvare con pare 75 milioni di perdite. Questo vuol dire che tra due mesi l'azionista di maggioranza deve staccare un assegno di 75 milioni. Poi bisogna, sì, garantire il debito bancario. Fininvest si ritira, non ci sono più le sue garanzie. Le banche italiane devono trovare un azionista di maggioranza che dica che i 220-250 milioni di debito sono garantiti dalla consistenza dell'azionista di maggioranza, ecco, e arriviamo a 300. Poi ci sono i soldi della campagna acquisti, si parlava di 130 milioni. Quelli sono lontanissimi. Però senza un'adeguata campagna acquisti, concludo subito, sì, non c'è investimento che tenga. Non ha senso mettere un miliardo nel Milan se ti accontenti di un Milan ci sono delle che si batte per il settimo posto. Avvocato, ci sono altri problemi più immediati, ad esempio il contratto di Donnarumma è stato chiesto anche questa mattina in assemblea, anche quello è un nodo da sciogliere alla svelta. Due questioni, Marco Beninazzo, con i termini di oggi è saltata anche l'esclusiva della trattativa, punto primo. Dubbi di Berlusconi emergono da tutte le parti, ma emergono non solo da parte di Berlusconi ma da parte di tutti quanti. È più probabile oggi che si tenga il Milan? Beh, sai, è una domanda molto complessa, nel senso che effettivamente se lo potrebbe anche oggi tenere, no? Scaduta l'esclusiva, tiene i 200 milioni, rimette il Milan sul mercato e cerca un acquirente più solido, più serio, con cui poter imbastire un'altra trattativa. Questo ci sta, la Fininvest non vuole farlo, ma in qualche modo è costretta a rioccuparsi del Milan. E tra l'altro, appunto, si legge di possibili nuovi ritorni in scena di Galatioto, magari anche di Mister B, chi lo sa. Però torniamo al punto di partenza, insomma, questi soggetti non hanno garantito una trattativa seria. Vorrei dire, abbiamo come parametro quello che è avvenuto dall'altra parte di Milano, Inter Suning, una trattativa chiusa in 6 mesi, un gruppo da 40-50 milioni di 50 miliardi di fatturato all'anno, sì, sì, che prende il Milan e che prende una squadra, prende l'Inter, cerca di rilanciarlo. Io credo che il Milan abbia quantomeno lo stesso blasone dell'Inter e quindi quantomeno le stesse possibilità di trovare un acquirente serio. Quindi poi sull'esclusiva dipenderà poi dal comunicato, da come modificheranno il contratto, se verrà concessa quindi un'ulteriore fase di esclusiva fino al pagamento dell'ulteriore caparra, dipenderà da quello che ci diranno nelle prossime ore, immagino nei prossimi giorni, con il comunicato congiunto che si attende da Fininvest stesso. Sì, Pierluigi, stiamo aspettando, qui l'impressione, almeno che ho io, non so se la condividi, è che stiamo aspettando Godot, stiamo aspettando i Tartari, stiamo aspettando tutti quelli nella storiografia, nella letteratura che non arriveranno mai. Sì, perché tutto andava bene, no? Nel senso, tutto poteva essere in qualche modo accettato, tollerabile, un po' bizzarro, ma comunque ancora nell'ambito della quasi normalità, fino all'ultimo colpo di scena. L'ultimo colpo di scena è quello che di fatto, perché non è normale che ci siano dei soggetti che danno 200 milioni di euro e poi non si presentano al momento nel quale devi poi perfezionare l'acquisto. Non è normale che uno paghi il 20% di caparra per una casa e poi al momento del procito sparisce. Quindi questo è abbastanza curioso, ed è ovviamente un tema di queste ore, ma sicuramente il Milan avrebbe bisogno di un grande gruppo, di un gruppo molto forte, di un gruppo molto solido. Se non arriva questo gruppo molto solido, piuttosto che darlo nelle mani di chi non può garantire un futuro di successi, allora è meglio continuare con un Berlusconi motivato e nel contempo cercare dei soggetti più credibili per un'eventuale cessione. Su questo credo che non ci sia assolutamente dubbio. Avvocato Lascara, lei è d'accordo? E quali responsabilità ha la Fininvest in tutto questo? La Fininvest, se ha delle responsabilità, sono state quelle per le quali non ha ancora fatto a se stessa le domande alle quali noi piccoli azionisti, noi tifosi, gli chiedevamo di rispondere già 2 mesi e mezzo fa. E cioè, avete verificato in parole povere la consistenza e le capacità di chi avete al tavolo delle trattative? Ci avete assicurato che avreste lasciato il Milan in buone mani? Siete sicuri di averlo fatto? Io non credo che la Fininvest possa avere dubbi quanto alla necessità di vendere il Milan. Tutti gli analisti economici sanno perfettamente che con questi chiari di luna, con i rossi di Mediaset, con i rossi di Mondadori, Fininvest non si può permettere un giocattolino che costa 70-100 milioni all'anno di perdite. Però se questi acquirenti non sono in condizione di portare a termine la trattativa, Fininvest deve fare una cosa che secondo me è indispensabile. Si cerca sicuramente un nuovo acquirente, ma immediatamente cambia anche il management della società, se lo può permettere. Tutte le grandi società in una situazione di crisi come quella in cui il Milan versa devono avere il coraggio di ragionare in termini di una ristrutturazione radicale. Il Milan ha bisogno di una ristrutturazione radicale. Questo è un consiglio d'amministrazione che da 3-4 anni colleziona passivi, sì, record, questo, risultati questo è indubbio, però penosi. siamo lì a un passo da una presunta cessione, e questo si presume dovrebbe essere il passo successivo alla cessione. Il Milan dovrebbe sapere che siamo veramente a un passo, ma hanno verificato se i soldi c'erano, per esempio a dicembre, quando si diceva che il problema era soltanto autorizzativo? Perché qui a dicembre questo, sembrava che il problema fosse autorizzativo, ma che i soldi non c'erano. Questo io non lo so, Marco, tu lo ma sai. Ma le dichiarazioni queste erano. Soprattutto c'erano 100 milioni e poi 200 milioni versati. Quelli sono reali, sono arrivati. Lo sa, avvocato Lascara, che poi c'è un problema, lo accennavo prima, ma poi è il problema centrale, di verifiche antiriciclaggio, che al di là della conclusione dell'operazione, quando prendi dei soldi, in particolare all'estero, devono fare i consulenti dell'operazione e poi le autorità preposte nel momento in cui ci sorgeranno problemi o si riterrà di dover fare delle verifiche. Ed è evidente che qui, insomma, ci sarebbe la necessità di fare delle verifiche, perché 200 milioni che arrivano, peraltro, come sappiamo, da paradisi fiscali, non è quello il problema in sé, ma il problema della tracciabilità di questi soldi, sì. Insomma, andrebbero fatti, e credo che chi sta gestendo l'operazione in qualche modo si sia interrogato su questo, quindi immagino che delle garanzie ce le abbia, perché altrimenti entriamo in uno scenario. Credo anche, Marco, che la cosa sia talmente clamorosa, cioè dal punto di vista mediatico, dal punto di vista dello spazio, giustamente che si è presa questa trattativa, è abbastanza impensabile immaginare a chissà quale meccanismo. Sì, chiaro. Cioè, sarebbe assurdo, lo dico sinceramente, da uomo della strada, in questo caso, come si diceva una volta, immaginare a un meccanismo di questo tipo per riportare eventualmente dei soldi. Sì, sì, Pier, chiarissimo. Io più che altro ho sempre pensato che più che, diciamo, soldi, della proprietà riportati indietro, insomma, se ci sarebbero potuto scegliere altre strade meno clamorose, siano magari soldi appunto di cinesi che sono all'estero, e quindi di evasione cinese, voglio dire, comunque frutto di irregolarità, e quindi in ogni caso parliamo di un soggetto che ha promesso dei soldi, che il 5 agosto si è presentato con una lista di 11 possibili, attenzione, per il contratto preliminare parlava di 11 possibili investitori. Comunque parliamo della terza banca mondiale come China Construction Bank, Warong, istituzioni di primo piano, man mano che sono sfilati tutti, la Fininvest, diciamo, finora vogliamo dargli, come dire, una sorta di attenuante, si è fidata, generica, però ora non c'è più, con la cappa in tasca. Allora salutiamo tutti al momento con, tranne Pardo che rimane, con un enorme punto interrogativo. Aspettiamo il comunicato. Grazie. Forza. Tutti convocati. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Dal 4 marzo al 13 maggio ascolta giovani talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, a beneficio di tutti, di Pierluigi Pardo e non solo, di tutti i nostri ascoltatori, ultima ora, si complica il closing con SES, si va verso la non concessione della proroga e dunque uno scenario che potrebbe di nuovo cambiare. Molti gli ascoltatori in Ine 800240024, penso preoccupati. Lorenzo da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Estremamente evidente. Io sono preoccupato, sì, sono un tifoso del Milan, però io vorrei ribaltare la questione. Non vorrei che i problemi finanziari, anche di riciclaggio, eccetera, fossero non tanto di cinesi quanto di Berlusconi, però. Nel senso che sappiamo che Berlusconi ha fatto tante operazioni finanziarie nella sua vita ed è sempre stato controllato dalla finanza, eccetera. Per cui non vorrei che fosse lui ad aver avuto problemi di collocare poi il denaro che prenderebbe, lui era Fininvest, e quindi lo so che è maliziosa la mia... No, maliziosa, è molto diffusa, abbiamo già risposto molte altre volte a questa illazione, questa è un'ulteriore illazione, nel senso, se uno comunque vende una casa, vende una casa, e qui è il compratore che non si presenta, non è il venditore, infatti. Quindi Berlusconi... L'allusione su Berlusconi, che tutto questo sia un gigantesco tentativo per recuperare, per portare dei capitali senza vendere la società. Questa è l'illazione che abbiamo sentito mille volte. Ripeto, mille volte, non facciamo questo mestiere, cioè quello dei giudici, dei Carlo, a me sembra assurda per un motivo semplicissimo, perché chiaramente è talmente clamoroso, cioè non è che si sta vendendo una cantina in una zona periferica di Milano o di Torino, si sta vendendo una società con titoli di giornali, mesi e anni nei quali se ne parla, quindi mi sembra veramente, come diceva prima Beniazzo, abbastanza grottesco che tutto questo sia avvenuto, ma ovviamente dietro a qualsiasi operazione così importante ci deve essere poi tutte le verifiche che devono essere fatte non da noi, ma da chi deve controllare, quindi questo è assolutamente sacrosanto, ma che adesso il problema sia nel venditore, il venditore aspetta i soldi ed è pronto a chiostrare il contratto, a quanto ne sappiamo. Armando, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Ma diciamo che io, quello che volevo dire io, secondo me, c'è che nessuno ha mai, se mai fosse il problema della provenienza di questi soldi. Perché io ho il mio pensiero e c'era qualcuno che... E ognuno ha il suo. Qualcuno che diceva a pensare male si fa peccato, ma molte volte ci si azzecca, no? Quindi vabbè, comunque lasciamo perdere. Però cioè, nessuno indaga sulla provenienza di questi soldi. La seconda tranche di 100 milioni ha fatto il giro del mondo prima di arrivare in Italia. Cioè, sono cose che un comune cittadino, se va in banca a fare un versamento, un tot... c'è l'antimafia, c'è di tutto e di più. Ma infatti, cosa ha detto prima Berinazzo, Pierluigi? al netto di... al netto di tutte le verifiche antiriciclaggio, ma questo adesso richiamate Beninazzo, perché poi questa, se la discussione diventa nuovamente così strettamente economica, forse lui può rispondere con parole migliori. Io ripeto, leggo i giornali e nel mio piccolo appunto sono d'accordo, il normale cittadino nel momento nel quale gli arriva un bonifico, deve fare un bonifico, sa benissimo che ci deve essere una tracciabilità, e ci deve essere una tracciabilità di questi soldi, non c'è nessun dubbio su questo, proprio non c'è nessun dubbio. Ripeto, sarebbe abbastanza curioso e anche abbastanza grottesco immaginare un'operazione di questo tipo su una cosa che è così tanto nell'occhio del ciclone come la vendita oltretutto complessa, lunghissima di questa società. Trovo strano, ma tutto sommato più probabile, che invece realmente stia avvenendo quello che sembra che stia avvenendo, cioè che all'interno di questo pool di soggetti cinesi Si è scoppiata una bolla di sapone. L'impressione che possiamo averne è questa, Giovanni. Ma detto questo, è giusto che si indaghi, ci mancherebbe altro. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo riprendere Bellinazzo. Come si chiama Bellinazzo? Marco Bellinazzo. Sì, Marco Bellinazzo. Sì, ha detto una grandissima sciocchezza. Cioè? Ha detto che il blasone del Milan è uguale a quello dell'Inter. Allora, per quanto riguarda la Coppa dei Campioni, Milan 7, Inter 3, Coppa Intercontinentale, Milan 5, Inter 3, Coppa delle Coppe, Milan 2, Inter 0, Scudetti, Milan 18, Inter 17, continuare? No, non è necessario, grazie, va bene così. Chi ora che per intenda, blasone non significa il conto aritmetico dei trofei, significa ciò che rappresentano comunque questi club, così come rappresenta il blasone della Roma, e il blasone del Napoli, il blasone della Juventus, era un discorso in generale, anzi mi pare che tante volte in questi anni nei quali ci siamo trovati a parlare con Beninazzo, a intrecciare ragionamenti diciamo di finanza con il mondo del calcio, abbiamo sottolineato, qualche volta anche con un pizzico di sorpresa, che la quotazione del Milan fosse una quotazione molto alta. E la spiegazione che Beninazzo, e devo dire anche il buon senso, dava di tutto questo è nella storia del Milan degli ultimi 25 anni. Certo. Io mi trovo spesso a dire in questi mesi, in questi anni non esattamente gloriosi per il Milan, che penso che il Milan avrà un grande futuro, perché il Milan in un calcio come quello di oggi, nel quale il valore del brand, il valore di un marchio è fondamentale, perché significa avere centinaia di migliaia di tifosi in giro per il mondo, perché questa è la realtà di un mercato globale. Il Milan ha un passato talmente glorioso, glorioso. Al momento è tutto ipotetico sul grande futuro del Milan. È un gigantesco punto interrogativo. Senti, sei d'accordo se parliamo un po' di calcio? Perché secondi che sarebbe irragionevole se il Milan nei prossimi anni avesse una proprietà debole. Sarebbe irragionevole. Il Milan oggi è comunque una fabbrica che può fruttare. È un grande marchio italiano e stiamo parlando di imprenditoria. Allora, saluto Boris Sollazzo, buongiorno. Buongiorno a tutti. No, perché dopo aver attraversato come tanti Caronte questa settimana, che è un fiume di veleni che si conclude oggi con questa grottesca, surreale storia del mancato closing del Milan, domani pomeriggio si affrontano le due grandi arrabbiate, le due grandi deluse, Roma e Napoli. Tu, romano, tifoso del Napoli, come ti avvicini alla partita di domani? Parto facile. Ma io mi avvicino sperando intanto che sia una bella partita e che non ci sia nulla di extracalcistico, già mi basterebbe. Poi anche lì, sulle grandi deluse o arrabbiate, riprendendo la storia del blasone, molto tifo napoletano che si lamenta che la squadra di Maradona adesso si accontenti di secondi e terzi posti, ma il blasone del Napoli è fatto anche di 12 anni fa, che ripartiva dalla C, quindi conta molto il tempo, conta molto il momento storico e via dicendo. Sono due squadre che secondo me in questo momento sono nella posizione che compete alle loro rose. Esattamente, quindi sono d'accordo, anche Pardo so che lo è una partita che si carica comunque per varie ragioni di mille significati, Pierluigi. Sì, è una partita che arriva dopo due grandi sconfitte, perché sia la Roma che il Napoli hanno vissuto una settimana molto complicata, e quella della Roma per certi versi anche più sorprendente, perché la Roma invece era arrivata col morale a mille. Io penso che il Napoli abbia un vantaggio in questo caso, mai come questa volta, il vantaggio di aver riposato di più. Il Napoli, tante volte abbiamo sentito, giustamente, da un certo punto di vista, si è lamentato della sfortuna di avere in questo momento un calendario particolarmente stretto, ma io credo che in questo momento la Roma sia messa ancora peggio, perché la Roma ha giocato il derby con la Lazio con qualche ora di ritardo e vabbè, questo con qualche ora di riposo in meno, e questo è poco, ma soprattutto si trova a giocare a 2 giorni e mezzo di distanza dal derby, e questo ovviamente non c'entra con il calendario ma c'entra con le scelte di Spalletti. Lo fa avendo fatto poco turnover, cioè fra la sconfitta di Sarri a Torino con la Juve e quella di Spalletti nel derby con la Lazio c'è questa differenza, che certo. Sarri ha fatto sicuramente più turnover, e quindi mi aspetto che possa essere un po' più fresco, poi magari un po' di turnover Spalletti lo farà proprio domani, però ecco, la serata di Coppa Italia della Roma mi sembra abbia fatto vedere una squadra un po' stanca, poco lucida negli ultimi 16 mesi, sì, poi la Roma con tutti i meriti che riconosciamo e abbiamo riconosciuto anche ieri alla Lazio. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Tutti convocati. In testa per Cannavaro, posizione regolare di Cannavaro, che palla cross, il rimbalzo di Cavani. 2-0 per il Napoli. 2-0 per il Napoli. Discorsato. Parte Pjanić, rete! Parte Pjanić, rete! Hamsik! 2-2! Pallonetto di Totti in area, grande palla per Pjanić, Maicon a sostegno, sarà Nainggolan! Un montaggio un po' colorato per questo Roma-Napoli che ci aspetta, senza dimenticare tutti quanti che il Napoli ha il Real Madrid dietro l'angolo, e questo è un altro fattore che può influenzare la gara di domani. Certo. E con il Real Madrid che sta vivendo questi strani chiari di luna, io mi rifiuto di pensare che non sia nella testa di Sarri e dei suoi ragazzi, nonostante non lo ammetteranno mai, eccetera eccetera eccetera. Pardo Sollazzo. Sì, parlo io? Dai. No, il pensiero c'è sicuramente, insomma, io credo che sicuramente la partita con il Real, è quasi la palestiano dirlo, sia più importante di quella con la Roma, nel senso che quella con la Roma è una partita importantissima, ma con dei margini di recupero sicuramente superiori. Certo. Quella con Real non è una finale, perché sappiamo che è un ottavo di finale, ma insomma, per la storia, il prestigio e le casse del Napoli significherebbe ovviamente tantissimo. Detto questo, poi secondo me la sconfitta con l'Atalanta ha anche un po' cambiato gli umori di questa sfida, nel senso che il Napoli adesso deve fare una partita per vincere all'Olimpico, secondo me. Non, il pareggio, tutto sommato, alla Roma potrebbe andare bene in chiave secondo posto, poi magari la Juve se ne va e si chiude prima il campionato. Insomma, l'abbiamo detto tante volte, in una stagione nella quale la distanza fra le grandi e le piccole è enorme, gli scontri diretti assumono una rilevanza capitale, ancora superiore. Capitale, certo. Capitale. Boris Sollazzo, come hai vissuto la settimana che può essere battezzata, o che è stata battezzata da alcuni, come quella del piagnisteo napoletano? Ma oddio, cito Francesco Albanese, che è un collega, dicendo che il giorno che mi troverò d'accordo con tutto sport e libero mi dovrò preoccupare, quindi preferisco proprio non commentare, perché sono pagine di giornalismo, a mio parere, deteriori proprio riguardo alla pregiudizialità che c'è sotto quel punto di vista. Non mi ha stupito quello che è successo nel secondo tempo di Juventus-Napoli, nel senso che fa parte di una tradizione calcistica ben consolidata. Credo che sia stato un arbitraggio scandaloso. Spero che questo arbitraggio scandaloso cementi in qualche modo il Napoli. Non sono tanto d'accordo con Pierre, invece, sul fatto che tra le due partite sia più importante quella con il Real. Quella con il Real è una festa, possiamo dire una festa sorpresa, nel senso che... Pure con questo Real, Boris? Perché questo sì, Real non... sai meglio di me qual è stato l'andamento del Real Madrid nelle ultime partite, quali sono le condizioni del Real Madrid... Qual è la fragilità anche del Real Madrid in questo momento? Ma sì, però è anche vero che posso dirti che con questo Koulibaly probabilmente il Real uno o due gol li fa comunque. Il problema è che secondo me non si può prescindere da Roma, nel senso che solo un Napoli che esce dall'Olimpico con una grande prestazione e possibilmente una vittoria può trovare la forza di fare un'impresa contro il Real. Il contrario non lo vedo, cioè un Napoli lontano 8 punti dal secondo posto, secondo me è un Napoli che arriva psicologicamente a terra contro il Real e non trova in così pochi giorni la possibilità di fare quella grande impresa, anche perché il Napoli non è che deve puntare ad andare avanti in una coppa che naturalmente non vincerà, per carità, io il biglietto per Cardiff lo faccio, ma no, dubito fortemente, sai, che lo vincerà. Non è questo il punto, non è questo il punto. Sono d'accordo che chiaramente la partita più importante è sempre la prossima, come dicono gli allenatori, no? Nel senso che è quella che poi ti dà lo slancio per quella successiva. Sarebbe stato importante non perdere con l'Atalanta anche per arrivare bene alla partita con la Juve e viceversa. Dico che in assoluto, ragionando così, diciamo, se vuoi un po' astrattamente, se si potesse decidere a tavolino fra eliminare il Real Madrid e vincere all'Olimpico, secondo me De Laurentiis e Sarri preferirebbero eliminare il Real Madrid perché all'Olimpico, perché il campionato è più margine di crescita. Ma poi non solo De Laurentiis e Sarri, è ovvio che probabilmente è più facile fare risultato all'Olimpico piuttosto che ribaltare Real Madrid, ed è ovvio quello che dice Boris, che la partita di Roma poi può essere strettamente importante per quella poi del 7. Io devo posso dire una cosa poco da tifoso? Firmo per la vittoria contro la Roma, per un 2-0 contro la Juventus nella semifinale di ritorno e per essere eliminato dal Real Madrid. Vabbè, questa è opinione tua. Questa opinione tua e ognuno la sua. Io preferirei, fossi tifoso del Napoli, eliminare il Real Madrid, ma per sognare un po', per vedere il sole. Poi se elimini il Real Madrid, e poi te la giochi abbastanza con tutte, questa te la giochi abbastanza con tutte, forse il Bayern è un altro passo, lasciando stare Cardiff, vabbè, vinciamole tutte, facciamo così contenti. Mettiamoci tutti d'accordo. Un'ultima cosa per Boris Solazzo, poi scatta per Pardo il momento della schedina. È vero, ti stavi dimenticando, cosa credi? Mi raccomando, Pier. Allora, rispondimi sinteticamente, fai critico cinematografico, io ti credo, ti chiedo un'opinione invece televisiva, le polemiche del Napoli con la Rai. Beh, io onestamente so che non mi troverai d'accordo, ma le trovo giustissime. Devo dire che la Rai sicuramente meriterebbe un Razzie Awards per la regia, anche se le immagini non sono loro, e ancora di più per le interpretazioni dei coprotagonisti, cioè i telecronisti. Non è una cosa che mi stupisce, ma mi sembra, non voglio fare la vittima perché sarebbe sbagliato, però mi sembra che ci sia una sottovalutazione del pubblico, del cliente Rai, che sia sotto la linea del Tevere, insomma, in qualche modo. L'ho visto in Napoli-Inter, l'ho visto in Napoli-Roma quando la semifinale che portò alla vittoria dell'ultima Coppa Italia, e l'ho visto anche Juventus-Napoli. Certo, se mi chiedi perché il Napoli ha perso, certo non ha perso per colpa dei circuiti, però io da utente Rai non sono stato soddisfatto, e a un certo punto, prima che me lo suggerisse De Laurentiis, me la sono sentita senza commento. Vabbè, grazie Boris. Grazie e in bocca al lupo. In bocca al lupo per te e per il tuo Napoli. Senti la musichetta, Pardo. E allora, Capuano ha fatto dalla vacanza. Ha inviato dalla vacanza, sì. Ha inviato vacanza. Vediamo. Allora, ricordiamo il 7-4 della settimana scorsa. Sì. Ricordiamo il 7-4 della settimana scorsa. Si parte appunto da Roma-Napoli domani alle 3. X. Sentilo là. Sampdoria-Pescara domani ore 18. 1. Domenica ore... No, sempre domani, ore 20:45, faccio fatica con la... 1, Milan-Chievo, 1, con fatica. Andiamo a domenica alle 12:30, Atalanta-Fiorentina. X. Domenica, ore 15, Udinese-Juventus. 2. Cagliari-Inter. 2. Crotone-Sassuolo. 2. Empoli-Genoa. X. Torino-Palermo. 1. Posticipo di domenica, Bologna-Lazio. 2. Perfetto. Il notaio De Luca ha contabilizzato tutto. E Capuano ha messa su Twitter Giorgio De Luca. Adesso la vado a vedere. Balla a vedere, tutto quanto scritto, non c'è più possibilità di tornare indietro. Le buste sono chiuse, sigillate, le apriremo lunedì. Grazie Pierluigi. No, e Carlo, domenica. Sto arrivando a Bologna perché c'è la Final Eight. Guarda, c'è la Final Eight di basket, Lega 2, tra poco ne parleremo, subito dopo il GR. Lega 2 è anche B. Lega 2 anche B è una grande kermesse per il basket, ne parleremo dopo il GR, così certo. Come torneremo sul calcio per parlare di uomini con la valigia, gli allenatori del pallone. Poi torneremo di nuovo sul basket perché c'è un altro grande ritorno. Charlie Recalcati a Cantù, state con noi. Tutti convocati. Tutti convocati. Ed ecco che torniamo. Dunque, ricapitolando tutti i vari argomenti, closing del Milan non c'è stato e questo si sapeva, non si sa se ci sarà, non si sa se verrà accettata la nuova richiesta di proroga, insomma è sempre e tutto in alto, altissimo mare sul fronte rossonero. Tra poco parleremo di varie suggestioni tra il basket e il calcio, perché c'è la finale di Coppa Italia di Lega 2 e Serie B a Bologna e le due squadre bolognesi stanno lottando per tornare dove, permettetemelo, loro compete, cioè al piano superiore. Virtus primi in campionato, Fortitudo quarta ma a poca distanza. Poi parleremo di uomini con la valigia, che sono gli allenatori in questo momento. Si parla, ci sono un sacco di nomi, quasi tutti big che sono lì indecisi se fare come Claudio Ranieri e infilare nella valigia le ciabatte. Ne parleremo dopo e chiuderemo con Mario Boni tra Inter e un'altra suggestione che il basket ci regala, cioè il grande ritorno di Carlo Recalcati a Cantù. 27 anni dopo l'ultima volta su quella panchina. Intanto io saluto e ringrazio un'altra voce storica, da un po' sparita dal mondo del basket, Claudio Sabatini, che per anni è stato patron di una Virtus vincente e oggi è padrone di casa delle Final Eight di Lega 2. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Continuo a chiamarla così dal 2013. Ex presidente. Beh, va bene, è un dettaglio, come un diamante. Un presidente per sempre. Pardo sta arrivando e sì, sarà qua proprio nel parcheggio. Sono il parcheggio di Casalecchio. Parcheggio di Casalecchio. Ma è vero che di recente ha manifestato simpatie per la Fortitudo? No, ho manifestato simpatia per la Fortitudo quando mio figlio ha giocato in Fortitudo. Come? Vabbè. Sì. Quindi ovviamente per la Fossa. Che ragioni di famiglia. Esatto. Due, ovviamente non ho mai nascosto la mia simpatia per la Fossa, che è la parte importante della. Certo. Intanto, noi aspettiamo una Bologna che torni in Serie A. Anche noi. Una Bologna che torni tutta intera in Serie A. Bisogna meritarsela. Bisogna meritarsela, certo. Certo che bisogna meritarsela, perché non ti regala niente nessuno. Però so che parlo di tifoso di un'altra Virtus, però. No, io in realtà ho una grande simpatia per la Virtus Bologna, sono tifoso, parola grossa, insomma, diciamola, c'era George Gervin, c'era Larry Wright ancora prima, ma sicuramente ho una simpatia per le due Virtus. Ma che succede? Io lo so in realtà, ma vogliamo dire che cosa succede da oggi a domenica? Da oggi domenica la Turkish Cup, sono 16 squadre che si affrontano, le prime due si sono appena finita la prima partita, Biella è passata ai quarti, purtroppo salutiamo gli amici di Mantova che sono stati eliminati, quindi è una formula molto particolare. Si giocano delle partite di continuo su due campi, a Ozzano la Serie B, qui la Lega 2 oggi, domani tutte le semifinali di A-B e di A-2. Tutto quanto fa spettacolo un sacco di pallacanestro, un'ingestione di pallacanestro. Tra l'altro la Lega 2... Non solo. Ha una forza incredibile in questo momento la Lega 2, devo dire da 2-3 anni, perché è un luogo che racchiude una serie di città storiche del basket. Adesso per esempio stiamo per vedere Treviso-Roma, che è stata una partita che qualche stagione fa poteva valere una finale, una finale scudetto. Ovviamente la Virtus Bologna, ma insomma anche la Fortitudo, anche squadre magari che se la passano non benissimo. Siena. La Viola Reggio Calabria, storica e gloriosa, che sta facendo fatica. Insomma, è veramente un grande momento. Quindi ci divertiremo. Claudio Sabatini, perché hai detto non solo basket? Non solo basket, perché saranno tre giornate di spettacoli. L'Unipol Arena è il tempio dello spettacolo. Abbiamo cercato di coniugare quello che è per me lo sport più bello in assoluto, che è la pallacanestro, con gli spettacoli. Avremo tre giorni di intrattenimento dove il pubblico si potrà anche rilassare prima e dopo, durante la partita della propria squadra. Benissimo. E ci sarà anche, scusa, fammi dire questa cosa, perché insomma noi nati il 4 marzo, ecco, c'è una persona che è nata il 4 marzo, assolutamente, ma che è un po' più famosa di me. A proposito, ti faccio, ecco. te li fatichiamo domani per gli auguri. È un dettaglio. Domani celebriamo Lucio Dalla, e insomma, per me essere il 4 marzo e anche banalmente il giorno del mio compleanno nella città di Dalla, e di celebrarlo con una serie di sorprese che ci saranno alla Unipol Arena, insomma, è particolarmente simbolico e devo dire doveroso. E altrettanto qui da noi, che ovviamente abbiamo un palco, il palco di Lucio, quello che veniva a vedere la partita, a vedere tutti questi spettacoli, che abbiamo lui titolato, era il minimo che potessimo fare. Conforme... Sabatini è uno che vede le cose in anticipo, qualche anno fa ha invitato Lady Gaga. È un visionario, io aspetto che, visto che quest'anno ha invitato me, di fare la fila di Lady Gaga. Non ho lo stesso fisico, neanche la stessa voce. Non le assomigli tantissimo, posso dire. Non so se avete visto, dopo le parole di Papa Francesco di ieri, che ha usato la pallacanestro come metafora, abbiamo deciso di regalargli un pallone con i 16 capitani e speriamo di consegnarglielo. Ragazzi, in bocca al lupo per tutti, per questa meravigliosa tre giorni di basket. Divertiti, Pardo, ti invidio molto. Assolutamente. Ciao. Vi aspettiamo tutti all'Unipol Arena. Grazie presidente Claudio Sabatini, grazie. Buon lavoro, grazie a voi. Ciao. Allegri, Sarri, Conte, Spalletti, Paolo Sosa, Simeone, aggiungiamoci pure Ranieri. Sandro Sabatini da Mediaset Premium, ma quanti sono gli uomini con la valigia? Sono tanti, e poi non si sa neanche qual è l'allenatore perno, no? attorno al quale ruota tutto quello che una volta veniva chiamato il valzer delle panchine. Ora, visto questo il paragone che arriva da molto in alto, magari possiamo anche infine cambiare tango delle panchine. Però il perno forse può essere Luis Enrique, che ha spiazzato un po' tutti con questa decisione. Sì, se dovesse entrare in ballo qualche allenatore spagnoleggiante, perché altrimenti sarebbe un movimento abbastanza interno alla Spagna. Sì. Ecco. Senti Sandro, avrei un sacco di cose da chiederti, ma io mi permetto di dire che forse l'allenatore perno di tutto questo è proprio italiano, ed è Conte, perché Conte sarebbe stufo ma non si sarebbe trovato così bene in Inghilterra, non ha portato la famiglia a Londra, e quindi fa l'uomo con la valigia nella vita di tutti i giorni, tornando a casa quando può. Sta vincendo la Premier, o praticamente vinta. Risulta, anche a te credo, una corte serratissima di Suning, che i soldi per pagare Conte ce ne avrebbe come. Dove lo mettiamo? Guarda, a me Conte ha sempre fatto l'insoddisfatto al termine di ogni stagione, da quando ha iniziato ad allenare. Questo, che in apparenza può sembrare un suo limite, un suo difetto, in realtà è un suo enorme pregio, perché perfino anche in nazionale, no? Ricorderete che lasciava trapelare una certa insoddisfazione perché gli mancava il campo. Adesso gli manca l'Italia, in generale gli manca sempre qualcosa, ma ripeto, è il suo grande pregio, perché lo spinge sempre a migliorare e ad andare avanti. Da quello che mi risulta però, questa corte di Suning è soltanto stata affidata alla libera iniziativa di alcuni mediatori. Io da quello che so, Suning, cioè Mr. Zhang, sta pianificando con Pioli il futuro. Poi è chiaro che pianificare non significa concretizzare il futuro, ed è altrettanto chiaro che da Conte all'ultimo degli allenatori, quindi dal numero uno fino all'ultimo della terza categoria, tutto il futuro e il destino di qualsiasi allenatore dipende dai risultati, quindi è bene che Pioli faccia risultati all'altezza delle aspettative. Però anche se dovesse concludere bene, ma non con il tanto ambito traguardo della Champions League, io credo che Pioli abbia ancora i requisiti per restare alla guida dell'Inter, come Conte credo che alla fine resterà assolutamente alla guida del Chelsea, anche perché in Inghilterra sono molto rigidi e molto ferrei, e come esistono le clausole in caso di esonero, esistono clausole anche in caso di addio anticipato. Non mi risulta che Conte abbia la possibilità di liberarsi così a cuor leggero del Chelsea. Senti, io resto convinto, e nessuno mi toglie questa certezza, che è solo mia, è solo una sensazione mia, ripeto, che Allegri andrà via dalla Juventus comunque finisca la stagione. Io questo lo sostengo, anche questa è una convinzione mia, quindi facciamo che è una convinzione nostra, perché secondo me la storia di qualsiasi allenatore con qualsiasi società è di 3 anni, poi dopo è questa la durata naturale. Detto questo, io credo che ci sia una situazione da tenere molto sotto controllo. I contratti di Allegri, Marotta, Paratici, tutto sommato anche il mandato di Andrea Agnelli hanno tutti l'identica scadenza, che è 2018. Quindi non escludo che in qualche modo i destini siano anche incrociati, anzi no, la figura migliore è che siano paralleli, perché comunque al di là della momentanea insoddisfazione dei tifosi più esigenti, la soddisfazione che c'è da parte di Andrea Agnelli nei confronti di Allegri sarebbe anche a prova di qualsiasi risultato da qui alla fine della stagione. Però è anche vero che secondo me è una storia che a 3 anni si sta compiendo. A 3 anni si sta compiendo. E l'attrazione di una grande panchina internazionale credo sia umana per tutti. Ma è chiaro. È chiaro, legittimo, comprensibile e anche giusto. Senti, a Spalletti domandano, ma com'è il suo contratto? E lui risponde, no, il contratto di Totti è da rifare. Questa è storia di una settimana fa. Allora, a che gioco sta giocando secondo te Spalletti? Io non l'ho capito. Sinceramente è un gioco. Nemmeno tu. A me viene in mente sempre che lui fa l'allenatore, ma ogni tanto mette una T in più e diventa allenatore, perché è chiaro che sta recitando anche una parte che è legata al contratto, legata a Totti, legata a Famoso Stadio, legata a un sacco di variabili. Famoso Stadio, bravo. Però poi, capito, non è che poi quando c'è la giunta Raggi che dice vabbè, lo farete lo stadio, le cubature, che gliene frega Spalletti delle cubature. No, ma lui non scioglie, non la smette di alimentare tutti questi dubbi e retroscena sulla sua permanenza a Roma. Oggi la Gazzetta dello Sport ha titolato per la prima volta la possibilità di Spalletti al Tottenham, dove tra l'altro avrebbe il benestare, diciamo così, di un ex dirigente del Tottenham, quel Franco Baldini, che una volta era sempre in prima fila, adesso negli ultimi 6 o 7 anni si è specializzato nel ruolo di dirigente ombra, sia del Tottenham sia probabilmente anche della Roma. Non lo so, tutto è possibile. Una cosa è sicura, Spalletti non aiuta a capire, né noi né i tifosi, qual è il bivio quantomeno del suo futuro. Come immagini il futuro di Sarri? Dipende lui più che mai dipende dai risultati, ma non per un classico luogo comune, ma perché i risultati orientano tantissimo, anzi esasperano l'umore di De Laurentiis. Sarri ha un popolo dietro di sé che lo adora, i tifosi napoletani. Credo che anche la squadra, pur con qualche screpolatura, perché mi credo che non ci sia un unico Gabbiadini come unica pecora nera, ecco, ci sia magari anche qualche giocatore che gioca meno, che non che non è disposto a scambiare, a trasformare Sarri in San Gennaro, però sì, ha comunque un popolo dietro di sé, adorante di tifosi, ha giocatori che lo stimano, ha una reputazione straordinaria. Va bene, facciamo finta che vada fuori con Real Madrid e arrivi terzo. Secondo me l'ipotesi di divorzio è molto probabile, perché comunque Sarri è in una situazione che si umana, in cui non si sente ripagato come a suo merita, e probabilmente non credo sia il caso di utilizzare il condizionale merita e non meriterebbe, e non si sente gratificato probabilmente da De Laurentiis. E quindi chi non si sente gratificato dal proprio datore di lavoro, credo che in qualsiasi campo, soprattutto per una panchina, mediti l'addio. Senti, a proposito di panchine, Sandro Sabatini, nel salutarti ti unisci a me in un grande in bocca al lupo e bentornato a Charlie Recalcati a Cantù? È un enorme in bocca al lupo a Charlie Recalcati. Charlie Recalcati è stato Cantù, tutto sommato è bello non dire più è stato Cantù da giocatore e poi da allenatore, è bello dire ancora è Cantù. Ti dico che ti sta ascoltando, è in linea con noi. Credo che sia sinceramente un onore per me. Grazie Sandro Sabatini. Grazie, ciao, Sandro. Grazie a voi. Ciao, ciao Charlie. Ciao a tutti. Stamattina ti ho rotto le scatole, però ne valeva la pena. Cioè, io ci ho provato. No, ma hai fatto... Sono felice che tu abbia risposto. Hai fatto benissimo. Che questi due giorni veramente sono stati molto intensi e dire poco. Stamattina avevo incontro con la squadra, l'allenamento, e poi dopo riunione con i collaboratori. E il tuo messaggio l'ho visto 5 minuti fa, quindi meno male che l'ho visto e ti ho risposto. Quindi. Grandissimo, sei un amico, no? Io sto guardando questa pagina della Gazzetta, Carlo III il ritorno, cioè il tuo famoso tiro in sospensione in maglia Forst numero 6. C'è un'immagine di quando eri allenatore, hai smesso lì su quella panchina nel 90 per poi andare a raccogliere trionfi ovunque. C'è una stretta di mano che è quella attuale con Irina Gremischenko. Sì, è stata una trattativa teoricamente corta ma anche lunga, ma soprattutto molto intensa. Sì. Perché si tratta di Cantù e quindi ha una valenza particolare per me, per cui a me non interessava, soprattutto su Cantù, pur sentendo di doverla aiutare, di essere solamente il presente. Voglio troppo bene a Cantù per sapere che Cantù ha bisogno soprattutto di avere un futuro. È chiaro che bisogna salvarsi, però proprio nel salvarsi bisogna poi cercare di essere nella condizione di sapere che c'è continuità, ciò che chiaramente io desideravo e ciò che ringrazio la proprietà che ha capito, perché vivendo a Cantù è un po' il sentimento di tutti. Sì, guarda, pensa che scrivono un messaggio da Enzo da Varese che scrive: un saluto al nostro coach della Stella. Varese Cantù, rivalità storica, però sai, ti vogliono bene trasversalmente dappertutto, non solo perché hai allenato e vinto con la nazionale. So che vuoi fare l'uomo duro, l'uomo che non chiede mai, come in quella famosa pubblicità, però io scommetto che qualche emozione ce l'hai dentro. No, ce n'ho molte, proprio perché è una situazione particolare, ce n'ho molte perché so di avere tanti amici in tutte le piazze in cui ho avuto la fortuna di lavorare e sento da parte di tutte queste piazze molta solidarietà in questo momento, pur sapendo che loro chiaramente sentono Cantù come tradizionali rivali, ma devo dire che è stato anche un sentimento che Cantù ha avuto nei miei confronti nel momento in cui nel 90 ho cominciato a girare per l'Italia andando ad allenare piazze non certamente gradite ai tifosi canturini. Nonostante io avevo sempre avuto la famiglia Cantù, ho sempre mantenuto la residenza, la mia famiglia è cresciuta comunque molto bene a Cantù, proprio perché questo senso di rivalità c'era, ma con grande rispetto e soprattutto non andando a toccare la famiglia, e quindi io sento veramente di avere un grande debito di riconoscenza, non dal punto di sportivo a Cantù, perché credo che forse lì siamo andati pari, io ho avuto tanto da Cantù, penso di avere dato anche abbastanza a Cantù in fatto di prestazione, in fatto di risultati sportivi, però il fatto appunto che la città mi ha permesso di far crescere la mia famiglia, le mie figlie, i miei nipoti, pur, il nipotino pur cosa io detto? Un rivale. Il nipotino cosa, io mi ricordo una volta che parlavamo di giochini, che giocavi con tuo nipote, Shrek, sì. Shrek, eccetera. Beh, nipotino è cresciuto, cosa, lo so che è cresciuto, ci conosciamo da molti anni. È cresciuto, quindi mi ha già presentato una lista dei suoi compagni di squadra, sui gradimenti, sui vari giocatori. sì. E quindi lui è cresciuto molto, adesso ha 15 anni. Quindi. E quindi magari è convocabile per la squadra. E quindi non Andiamo. Gioca per Cantù. Ah? Non gioca per Cantù, quindi non lo posso convocare. Lo compriamo, no? Sì, compriamo. Possiamo fare una trattativa adesso durante l'estate. Una trade. Un'ultima cosa, Charlie, ho letto obiettivo salvezza, Cantù si trova da quelle parti lì, però sì. Ho chiesto il premio playoff. No, è stata, perché chiaramente sai, dopo fai una conferenza stampa, dici tante cose, non hai magari la chiarezza nell'esposizione sulle cose che obiettivamente contano meno. No, è un contratto biennale, quindi trattandosi di un contratto biennale devi prevedere una serie di incentivi, di premi che riguardano e la salvezza e poi dopo i playoff. Però devo dire, essere molto sincero, che in questo momento sto pensando, l'ho detto alla squadra, pensiamo alla salvezza, punto, perché la cosa più importante è veramente dare continuità a questa proprietà e insomma a questa realtà che sì, è una proprietà russa importante, che ha speso molti soldi, che ha scelto quasi sempre allenatori russi eccetera eccetera. Forse adesso ha capito la strada, lasciami essere. Sì, chiaramente poi dopo hanno anche capito che le regole sono diverse, che quindi sono all'interno di un sistema che loro non conoscevano e che adesso cominciano a capire, hanno fatto fatica insomma anche a digerire determinate cose. Quindi tieni presente che però nel mio contratto non è previsto il premio scudetto. Non è previsto. Non mi sono allargato troppo. Non ti sei allargato troppo. Il presidente no. Non ti ha chiesto di giocare, di entrare, di fare allenamento, no. Beh, questo lo si scoprirà con il tempo. Senti, Charlie, ti abbraccio forte e sono felice. Sono felice. Grazie, di un abbraccio a tutti voi. Ciao Charlie Recalcati. Grazie. Ciao. E con Charlie Recalcati, l'allenatore di Cantù, per la gioia di tutti i tifosi del basket, io ne sono convinto. Chiudiamo questa settimana non semplicissima, ci attende un weekend che speriamo sia divertente e pacifico. Ne parleremo domenica pomeriggio dalle 5 alle 7 in Tutti Convocati Weekend, ovviamente la settimana prossima. Ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, ringrazio Paolo Corleoni in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Mi scuso con Marco e Fausto che sono in linea ma non riusciamo a parlare per ragioni di tempo. Lo faremo il prima possibile. Ciao.